Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'incidente ferroviario in Puglia, soccorritori ancora al lavoro e ancora incerto il numero delle vittime, 23 quelle delle quali si sa al momento, trovati altri resti umani sotto le carrozze. Si indaga sulle cause, probabile l'errore in una segnalazione sulla tratta, non c'è il sistema che fa frenare automaticamente i convogli. È morto il boss Bernardo Provenzano, era in regime di 41 bis in un ospedale milanese, era stato arrestato 10 anni fa dopo 43 anni di latitanza. Banche vola, Monte dei Paschi in borsa, ottimismo sull'ipotesi che si raggiunga un accordo con Bruxelles, collocati BTP a 3 anni con rendimento negativo. Immigrazione, ancora attenzione sull'accoglienza, oggi andremo a Como dove i migranti o richiedenti asilo respinti dalla Svizzera si ammassano in stazione. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti i soliti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e poi ci potete contattare anche via mail effettogiorno@radio24.it in una puntata che sarà anche oggi ampiamente dedicata, come evidente, a quello che è avvenuto in Puglia, allo scontro tra due convogli che ha portato alla morte di almeno 23 persone, questo è il numero che abbiamo adesso. Si continua a lavorare sul luogo dell'incidente con il quale ci collegheremo tra poco, intanto andiamo sulle indagini, sta indagando la procura di Trani, ci colleghiamo con Lucia Di Mari, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno che già ieri ci ha aiutato e supportato nel raccontare quello che stava avvenendo. Allora Lucia, buongiorno innanzitutto e che cosa sta succedendo in procura in queste ore? Sì, buongiorno dalla procura della Repubblica di Trani dove i magistrati sono ancora chiusi in un vertice con il sostituto procuratore aggiunto Francesco Giannella, c'è tutto il pool che sta decidendo appunto il coordinamento dei due fascicoli aperti per disastro ferroviario e per omicidio plurimo colposo. Intanto il capo del Dipartimento della Polizia Ferroviaria della Puglia, Basilicata e Molise, Gianfranco Conticchio, ci ha rivelato che le due scatole nere sono state ritrovate, così come sono stati acquisiti i filmati delle stazioni di partenza dei due treni, cioè quelle di Andria e quelle di Corato, e che si ipotizza chiaramente l'errore umano o tecnico o entrambi su questa tratta dove non era efficace, non era attivato il sistema automatico ma quello del blocco telefonico sul binario unico, diciamo che è un sistema abbastanza atavico che purtroppo però su quella tratta era attivo. Nessun blocco telefonico nei 10 chilometri fra le due stazioni, bensì lo scontro frontale. Il procuratore dovrebbe uscire fra qualche minuto, purtroppo non ancora, sono qui con tutti i colleghi naturalmente, e il bilancio è quello che abbiamo detto, 23 cadaveri ufficiali all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, ma ancora 2 senza riconoscimento. I feriti sono 4 in codice rosso ancora negli ospedali di Barletta, Andria, Policlinico, anche San Giovanni Rotondo. Questo dunque è il quadro. Allora Lucia, io intanto ti ringrazio, mi riservo eventualmente di richiamarti nel corso della trasmissione nel caso uscisse il procuratore e appunto avesse delle cose da dire su questi temi. Intanto andiamo proprio sul luogo dell'incidente dove si trova Vincenzo Rutigliano. Vincenzo, buongiorno, qual è il quadro della situazione? Cosa vedi? Immagino si stia ancora lavorando. Esatto, il luogo del disastro in Agro di Andria, a qualche chilometro, 4 o 5 dall'abitato, è un luogo nel quale i vigili del fuoco, impegnati per tutta la giornata di ieri, ancora questa notte e ancora ora, hanno portato a termine un'altra delle due operazioni più delicate rimaste da effettuare, cioè hanno liberato parte della massicciata ferroviaria dall'ultimo vagone del convoglio che, partito da Andria, ha incrociato l'altro appunto nella zona di cui si è detto. Un'operazione che è iniziata più o meno alle 11.30, completata alle 12.30 con l'ausilio di una gru super specializzata e super potente, poi è stata trainata da una benna e portata sul fondo agricolo che costeggia la massicciata ferroviaria. Adesso poi tutta l'area è stata rinnovamente transennata, quindi è stato allargato lo spezzo, è intervenuta la polizia scientifica corpo di polizia ferroviaria, 2 unità cinofere dei vigili del fuoco, e quindi questa operazione di verifica ulteriore dopo aver liberato parte dell'area coinvolta prosegue. Adesso bisognerà togliere l'ultimo vagone, quello giallo del convoglio proveniente da Corato, dopodiché la massicciata sarà sotto questo profilo interamente liberata, ovviamente andrà tutta ricostruita. Per il resto ancora elicotteri della Guardia di Finanza e di Vigili del Fuoco sul volo della zona. Ti interrompo un attimo, Vincenzo, sì. Perdonami, vediamo se riusciamo ad andare alla Camera dei Deputati. E non si sente nulla perché è un minuto di silenzio che i deputati stanno rispettando per il momento, per ricordare appunto le vittime di questa tragedia. Tra pochi istanti inizierà il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, a riferire appunto alla Camera dei Deputati i dettagli dell'incidente, almeno per quello che ne sa il ministero. Intanto io ti ringrazio, Vincenzo Rutigliano, vedremo se riusciremo a collegarci di nuovo con te nel corso della trasmissione. Torneremo a parlare comunque di questi temi e tra un attimo sentiremo anche qualche parola del ministro appunto delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio. Come avete capito, l'attenzione si sta concentrando non tanto sul tema del binario unico. Pochi istanti fa l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, ha detto: la polemica sul binario unico non ha senso in Italia e nel resto del mondo, la maggior parte delle linee sono a binario unico, il punto è quello dei sistemi di sicurezza. E però nel frattempo i sistemi di sicurezza automatici, su questo torneremo, però nel frattempo sappiamo che il progetto per il raddoppiamento del binario era stato già finanziato. Sentiamo. Era un passo dall'inizio dei lavori per il raddoppio dei binari, quel tratto dove è avvenuto l'incidente. Un progetto da 180 milioni di euro, nato 8 anni fa, in corso, ma che doveva concludersi entro il 2015, originato da un bando dell'Unione Europea, già utilizzati 140 milioni per il raddoppio della tratta. La gara è stata bandita il 19 aprile per un importo a base d'asta di 31 milioni e le offerte, dopo un'ulteriore proroga, scadevano il 19 luglio, tra pochi giorni. E la storia del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Barletta, gestita da Ferrotranviaria, teatro del tragico incidente. Il grande progetto dell'azienda che controlla le ferrovie del nord barese nasce dopo l'approvazione da parte della giunta regionale pugliese del programma operativo FESR 2007-2013, i fondi europei di sviluppo regionale destinati a sanare i divari economici tra le varie regioni del vecchio continente. Sui circa 70 chilometri di linea di Ferrotranviaria, il doppio binario però esiste oggi solo tra Bari e Ruvo, mentre tra Ruvo e Barletta, quindi anche tra Corato e Andria, è rimasto il binario unico. Per i ritardi accumulati, spiegano dalla società, si sono dovuti attendere gli stanziamenti e la distribuzione dei fondi europei per il 2014-2020, cioè quelli dei programmi successivi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo appunto alla Camera, dove ha iniziato a parlare il ministro Del Rio, ascoltiamolo. La proprietà delle infrastrutture della Regione Puglia. La linea è elettrificata e a scartamento normale, a doppio binario nel tratto Fesca-San Girolamo-Ruvo, circa 33 km, mentre per i restanti 37 km è a binario unico. La circolazione dei treni avviene con blocco automatico bidirezionale da Bari a Ruvo mediante la CEI, l'apparato centrale elettrico itinerari di Bitonto, e gli ACS, gli apparati centrali statici di Terlizzi e Ruvo, e con blocco telefonico da Ruvo a Barletta. Il giorno 12 luglio alle ore 11:38 si è verificato uno scontro frontale tra due convogli ferroviari della lunghezza di circa 80 metri di recente produzione di immissione in servizio sulla tratta a binario unico Corato-Andria di questa linea ferroviaria gestita dalla società Ferrotranviaria. Il bilancio ad oggi, ancora non definitivo, è di 27 vittime e il ferimento di numerosi passeggeri. La società Ferrotranviaria ha interrotto la circolazione nella tratta. La tratta a binario unico sarà interessata da lavori di raddoppio per il cui affidamento da parte della Regione Puglia su fondi europei della Regione Puglia 2007-2013, poi trasportati con un progetto ponte sulla seconda programmazione 14-20, dicevo, la tratta a binario unico è interessata a lavori di raddoppio con un bando di gara già pubblicato e con il termine ultimo per presentazione dell'offerta fissato al 19 luglio. A seguito dell'incidente frontale occorso, Il Dipartimento della Protezione Civile, avendo appreso alle ore 11.42 della notizia dell'incidente, pervenuta alla sala Situazione Italia della struttura operativa dei Vigili del Fuoco, si è attivato immediatamente per seguire e valutare la portata dell'incidente, verificare che tutto il Sistema Nazionale di Protezione Civile fosse informato e portare da subito supporto alle autorità locali e alla Protezione Civile regionale. Successivamente, sulla base delle informazioni assunte e nel rispetto delle indicazioni della normativa di settore, ha assunto la configurazione in S2 presidio operativo ed è rimasto in videocollegamento costante con il centro operativo dei Vigili del Fuoco del Viminale e attraverso la sala Situazione Italia con tutte le sale operative nazionali, nonché con la Allora, Regione Puglia. Come sentite, come sempre, quando il governo riferisce in aula è innanzitutto un racconto dei fatti nudi e crudi, anche come del resto ve li abbiamo raccontati noi nella giornata di ieri e nella giornata di oggi. Quindi torneremo più avanti sulla relazione del Ministro Del Rio, lo faremo anche collegandoci con la nostra Elisabetta Fiorito della Camera dei Deputati per vedere se emergerà qualche elemento in più in ordine soprattutto alle cause di questo incidente. Nel frattempo passiamo alle altre notizie, iniziando da una arrivata poco fa ed è la morte che avete sentito, lo avete sentito nella nostra breaking news e poi nel GR delle 12 di Bernardo Provenzano in ospedale. Il servizio e poi il racconto della vita di Bernardo Provenzano di Daniele Biacchessi. Bernardo Provenzano è morto nell'ospedale San Paolo di Milano, dove era detenuto in regime di 41 bis. Il boss di Cosa Nostra era malato da anni, aveva un cancro alla vescica. Condannato a 20 ergastoli, tutti i processi in cui era ancora imputato, tra cui quello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, erano stati sospesi. Provenzano, sottoposto a più perizie mediche, era stato ritenuto incapace di parteciparvi e l'ultima diagnosi depositata dai medici dell'ospedale parla di grave stato di decadimento cognitivo, lunghi periodi di sonno, rare parole di senso compiuto, eloquio assolutamente incomprensibile, quadro neurologico in progressivo anche se lento peggioramento. Da anni l'avvocato del boss, Rosalba Di Gregorio, aveva chiesto senza successo la revoca del regime carcerario duro e la sospensione dell'esecuzione della pena per il suo assistito, proprio in virtù delle sue condizioni di salute. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Bino Provenzano era il capo dei capi di Cosa Nostra. Fin dal 1954 si lega all'allora capo della mafia Luciano Ligio e scala lentamente ma inesorabilmente tutte le gerarchie dell'organizzazione. Le prime azioni sono furti di bestiame, minacce e intimidazioni, scontri a fuoco con mafiosi avversari. La prima svolta avviene il 10 dicembre del 69 durante la cosiddetta strage di Via Lazio a Palermo. 6 morti, numerosi feriti. Il pentito Calderone lo accusa di essere uno degli uomini operativi del comando. Lui viene ferito ad una mano ma tira dritto. Nel 74 avviene la seconda svolta. Provenzano e Riina diventano i veri reggenti della famiglia di Corleone, il cuore di Cosa Nostra. Per Binnu inizia una stagione di omicidi e di forti investimenti in società immobiliari attraverso prestanome con lo scopo di riciclare il denaro sporco. Nell'81 scatta la terza guerra di mafia, diciamo la mattanza, che vede protagonisti ancora Provenzano e Riina. L'ultima svolta è quella stragista con i 500 kg di tritolo contro Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta il 23 maggio del 92 a Capaci, con l'eccidio di Via D'Amelio a Palermo il 19 luglio del 92, con l'uccisione di Paolo Borsellino della Protezione, con le stragi del 1993. Binnu dopo le stragi si dilegua e diventa un fantasma. Lo trovano l'11 aprile del 2006 in uno sperduto casolare e lo Stato lo inghiotte nel 41 bis. Ora la sua assenza diventerà un fragoroso silenzio. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla pagina economica, iniziando dai dati Istat. I prezzi al consumo scendono su base annua per il quinto mese consecutivo e a giugno mostrano un calo dello 0,4% in accelerazione dal meno 0,3% di maggio. Rispetto al mese precedente il quadro resta però fondamentalmente stabile. A motivare l'andamento deflattivo sempre la componente energetica, ci spiega Federico Polidoro dell'Istat. I beni energetici registrano anche a giugno una flessione su base annua del 7,5%, mentre tutte le altre tipologie tipologie di prodotto registrano variazioni positive. Al netto quindi dei beni energetici, l'inflazione è in rialzo, più 0,4%. In accelerazione soprattutto i prezzi di tabacchi e bevande alcoliche, anche se su base mensile i rincari maggiori arrivano dai trasporti a causa del rimbalzo dei carburanti. Tornano a crescere i beni alimentari per la cura della casa e della persona. Complessivamente l'inflazione acquisita per il 2016 è pari a meno 0,2%. Se da luglio i valori rimanessero stabili, l'anno chiuderebbe dunque con una variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ci sono le questioni delle banche. La giornata di oggi, nonostante il lieve calo per i mercati, meno 0,12% per il FTSE MIB e meno 0,03% per il FTSE All Share, fa segnare un forte rialzo per il Monte dei Paschi, che guadagna l'11%. Il mercato evidentemente scommette anche sulla possibilità di una soluzione a livello europeo, appunto, per le banche. Facciamo il punto proprio su questo. C'è un vento di ottimismo che soffia da Bruxelles sulle banche italiane. Un'intesa con la Commissione europea per stabilizzare gli istituti in difficoltà, proteggendo almeno in parte i risparmiatori, sembra essere vicina. Rassicurazioni sono arrivate dalla cancelliera Merkel e anche dal ministro delle finanze, il Falco Schäuble, secondo il quale ci sono margini di intervento per un'azione preventiva. Fiducia anche da parte dei vertici europei. Insomma, la trattativa con l'Europa progredisce, anche se permangono resistenze. In Germania, ad esempio, l'opinione pubblica è ancora maggioranza contraria all'intervento statale, pur previsto dalle regole del bail-in, ma solo in casi eccezionali. Resta poi da capire, questo è l'oggetto di trattativa con Bruxelles, quali saranno le ripercussioni di un eventuale aiuto di Stato. Il governo italiano intende garantire la piena tutela di famiglie e risparmiatori, mentre è probabile a questo punto che a pagare il prezzo di un eventuale salvataggio pubblico saranno gli investitori istituzionali. Il sistema bancario italiano è comunque solido, ha ribadito Padoan, e l'obiettivo è chiudere la partita al più presto, comunque entro il 29 luglio, data in cui verranno resi noti gli stress test. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla Gran Bretagna. Oggi l'insediamento della nuova premier Theresa May, che è stata accolta dalle parole molto dure della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ieri ha detto che chi vuole avere accesso al mercato unico deve accettare in cambio tutte le libertà fondamentali, compresa la libertà di movimento delle persone. Buongiorno Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Buongiorno a voi. Buongiorno Leonardo. Dunque, primo giorno a Downing Street per Theresa May e, come dire, una prospettiva di trattativa con l'Unione Europea che appare decisamente difficile, viste le premesse. Sì, prima notte a Downing Street, perché entrerà soltanto nel tardo pomeriggio, giusto per l'ora di cena, questa sera. Oggi è giorno di traslochi a Downing Street. E una trattativa che si presenta difficile, soprattutto perché uno dei punti chiave, nonostante Theresa May fosse favorevole a Remain, molto timidamente, ma comunque favorevole a Remain, uno dei suoi punti chiave, quando era ministro degli interni, è stata la limitazione dell'immigrazione intraeuropea. Ora, l'immigrazione intraeuropea è la carta di scambio con la quale la Gran Bretagna può sperare di rimanere all'interno del mercato interno per i servizi finanziari, eccetera. Quindi l'idea che Theresa May possa impuntarsi su una maggiore flessibilità per evitare di avere, come dire, libero accesso degli immigrati intraeuropei nella Gran Bretagna limiterà presumibilmente l'accesso britannico al single market, alle altre parti del single market. Questa è la difficoltà principale, perché su questo punto Theresa May è sempre stata molto rigida, cioè voleva assolutamente limitare la libera circolazione dei lavoratori. Vedremo dunque come andrà questa trattativa. Io intanto ti ringrazio. Grazie a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Noi adesso ci fermiamo e subito dopo iniziamo il nostro giro per l'Italia, e lo inizieremo necessariamente, e come giusto che sia, dalla Puglia. Andremo a sentire Nicola Giorgino, che è il sindaco di Andria. Risentiremo anche la voce del ministro Delrio, che sta continuando a parlare. Ci occuperemo anche di immigrazione. Andremo a Como, dove si stanno raccogliendo molti immigrati in stazione. Perché? Perché vengono spinti dalla Svizzera. E poi ci occuperemo anche, restando in Lombardia, sempre di temi di ferrovie, di binario unico e di assenza di sistemi automatici di controllo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'incidente ferroviario in Puglia, delle indagini sulle cause della morte di Bernardo Provenzano, dell'andamento di Monte dei Paschi in borsa e delle trattative con l'Europa sulle banche. E adesso torniamo però appunto a parlare dell'incidente fra treni in Puglia, e facciamo una cosa, facciamolo iniziando a tornare alla Camera dei Deputati, dove sta continuando a parlare il ministro Delrio. Sentiamone un altro passaggio. Per fare in modo che diverse linee diventino con la classificazione di interoperabilità, e questo per consentire a RFI di investire, di aiutare negli investimenti tecnologici e in sicurezza in questa direzione. Quindi dei 17 miliardi che abbiamo stanziato in questi due anni, diversi miliardi sono dedicati alle linee a carattere regionale, con un'inversione di tendenza netta rispetto al passato, ma comunque in una linea nelle linee di competenza appunto di RFI. Adesso è stato aperto il cantiere per poter aiutare le linee regionali a governare questa situazione in maniera più adeguata. E quindi in questa direzione che l'iniziativa del governo si è esplicata, e quindi noi, nonostante non abbiamo la responsabilità diretta su questa rete, vogliamo dire che siamo sempre stati disponibili e saremo disponibili, come abbiamo dimostrato anche in altri casi, a continuare a rafforzare il tema della sicurezza, dell'investimento in tecnologia, dell'investimento nel rinnovo del parco rotabile, dove abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per poter rinnovare completamente il trasporto pubblico locale, per poter consentire appunto che attraverso le gare si possano espletare servizi all'altezza di un grande paese quale siamo. In questo giorno di dolore, in questo giorno di lutto, in questo giorno così difficile per tutto il paese, noi vogliamo dire che non è il momento, per quanto mi riguarda, di scaricare le responsabilità sugli uni o sugli altri. È il momento di stringerci insieme, di trovare il modo per accelerare. Così, così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, la cui attenzione, mi sembra di capire, Elisabetta Fiorito in diretta alla Camera, si è concentrata esattamente su quello che dicevamo, ossia il controllo telefonico appunto del blocco dei treni, no? Sì, proprio così. La sicurezza della tratta coinvolta, ha detto Delrio, dall'incidente è regolata tramite il consenso telefonico che lascia interamente all'uomo la gestione, ed è tra i sistemi meno evoluti e più a rischio di regolamentazione della circolazione ferroviaria. Ci sono state poi, mentre parlava Delrio, anche delle proteste in aula, soprattutto perché il ministro ha voluto precisare che la responsabilità di questi binari, Simone, è della Regione Puglia, anzi che lo Stato centrale sta cercando di ammodernare e di dare una mano alle regioni in questo senso, e lì si sono sentite un po' delle proteste, probabilmente dai banchi del Movimento 5 Stelle. C'è poi il resoconto, e Delrio non si è sottratto ovviamente dei morti e dei feriti, ha detto appunto che si tratta ancora di un bilancio non definitivo, sono 52 i feriti, di cui 11 in gravi condizioni, mentre sono 27 le vittime. Continuano poi le attività del riconoscimento delle salme, ma ormai le operazioni si stanno concludendo. Ecco quindi che ha preso adesso la parola Gero Grassi del Partito Democratico, e che la discussione ovviamente andrà avanti, e bisognerà sentire soprattutto le proteste dell'opposizione. Ricordiamo che già ieri Alessandro Di Battista si è scagliato contro la TAV, dice ci sono dei treni pendolari che trasportano persone e sono fatiscenti, mentre noi vogliamo fare dei treni super veloci per trasportare delle merci. A te, Simone. E grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Torneremo più avanti sull'incidente in Puglia. Intanto proseguiamo il nostro giro per l'Italia, e il prossimo punto sulla mappa, punto mappa che trovate sul sito www.radio24.it, lo vogliamo mettere a Como. Perché a Como? Perché, come sapete, in questi giorni noi ci stiamo occupando molto di come viene gestita l'accoglienza dei migranti e di profughi in Italia. Abbiamo evidenziato molti problemi, abbiamo evidenziato due comuni del Veneto che da soli fanno 5.000 abitanti in due e hanno un migliaio di profughi accolti nelle strutture là intorno. Abbiamo raccontato i problemi di Milano, ci sono dei problemi anche a Roma, adesso ci sono dei problemi che si stanno verificando a Como. A Como perché? perché la Svizzera respinge le persone che vogliono andare in Germania e queste poi si ritrovano in stazione. Abbiamo in linea con noi Roberto Bernasconi, che è il direttore della Caritas di Como. Buongiorno Bernasconi, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Senta una cosa, mi sembra che la situazione oggi sia un po' più tranquilla. Il momento più critico è stato tra domenica e lunedì, no? Sì, però alla sera c'è sempre un arrivo di un 80-90 persone che stazionano appunto davanti alla stazione San Giovanni, perché vengono respinte dalla Svizzera oppure perché stanno cercando di passare il confine, che in questo momento sembra invalicabile. Quindi ogni sera ci sono tra le 80 e le 90 persone che arrivano in stazione a Como, e delle quali in qualche modo bisogna farsi carico, no? In parte lo fa, immagino, lo Stato tramite il prefetto, che non saprà più dove mettere le mani a questo punto, e in parte tocca farlo al comune per quanto riguarda i minori non accompagnati. Da questo punto di vista le cose come stanno andando? Stanno andando nel limite del possibile, con una certa decenza, anche se oramai tutte le strutture d'accoglienza anche per i minori sono strapiene. Quindi questo problema si sta sommando su un altro problema, che è quello dell'accoglimento in modo naturale delle persone che arrivano sul nostro territorio. E è sicuro che la situazione è sotto controllo, ma è grave. È grave perché davvero servirebbe più coordinamento sia a livello locale ma soprattutto a livello nazionale su una tematica che continuiamo a dirci che è emergenza, ma in realtà oramai è un fatto strutturale perché da anni sta andando avanti e non c'è un pensiero comune su come affrontarlo. Per cui allora, poi Bernasconi, cose come queste, sì. No, le dicevo, quando succedono cose come queste diventa emergenza. Allora, l'impressione che stiamo ricavando noi in queste ore da tutti i territori che abbiamo toccato, quantomeno telefonicamente, quantomeno sentendo le persone appunto sui territori, è che la gestione non stia funzionando per una serie di motivi e di inceppamenti. A volte non funziona il sistema di distribuzione da parte dei prefetti, altre volte i comuni sono riottosi all'accoglienza, a volte comprensibilmente, perché poi quando in un comune di 2-3 mila abitanti metti 600 persone, insomma è anche comprensibile che sia problematico, però l'impressione è che il sistema non stia funzionando e stia fibrillando da più di una parte. Sicuramente perché mancano le premesse. Abbiamo bisogno di più di 100.000 posti SPRAR, ce ne saranno 30.000. Non c'è un pensiero politico comune. Capisce che poi c'è un fai da te da parte delle associazioni di volontariato, di Caritas, di cooperative che stanno lavorando bene. E c'è tutto un ampio spazio per chi fiuta da fare su questa roba qui. Compreso, io credo, anche le persone che stanno stazionando a Como adesso. Ci sarà qualcuno che gli ha detto andate in Svizzera che si può passare? Capisce quello che c'è dietro che non va e che fa sì che poi un minimo inghippo fa succedere il disastro e fa succedere l'emergenza. Allora io la ringrazio, grazie Roberto Bernasconi, direttore della Caritas di Como. È un altro dei punti che abbiamo toccato in questo sistema di accoglienza che evidentemente non sta funzionando a dovere. Ne faremo altri nei prossimi giorni, c'è tra l'altro Roma che vogliamo toccare e ci sono anche molte altre città. Se ne avete, segnalatecelo, effettogiorno@radio24.it, e poi a un certo punto tireremo le fila di tutto questo e sentiremo anche il Ministero dell'Interno. Noi adesso ci fermiamo, come sempre andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione inizieremo il nostro giro per l'Italia, proseguiremo il nostro giro per l'Italia mettendo il prossimo punto sulla mappa di nuovo in Lombardia, ma per parlare in questo caso di treni, perché ci sono tratte anche in Lombardia nella stessa condizione di quella nella quale è avvenuto l'incidente in Puglia, tratte nelle quali c'è il binario unico e si è fortemente soggetti all'errore umano. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: incidente in Puglia, i soccorritori sono ancora al lavoro, ancora incerto il numero delle vittime, il governo ha parlato di 27, altre indicazioni dagli ospedali parlano di 23, trovati altri resti umani sotto le carrozze. Si indaga intanto sulle cause, è probabile l'errore in una segnalazione, sulla tratta non c'è il sistema automatico che fa frenare automaticamente i convogli, dice il ministro Del Rio, questo è uno tra i sistemi meno evoluti e più a rischio di regolazione della circolazione ferroviaria. È morto il boss Bernardo Provenzano, è nel regime di 41 bis in un ospedale milanese, era stato arrestato 10 anni fa dopo 43 anni di latitanza. E ora la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia. Oggi abbiamo appreso con un certo stupore, devo dire la verità, non conoscendo le questioni regolamentari così a fondo, da un bel pezzo del Sole 24 Ore, a pagina 8, firmato da Giuseppe Latour, abbiamo appreso che sapevamo che esisteva un'autorità nazionale di controllo sulla sicurezza ferroviaria, l'ANSF, e però abbiamo appreso che ANSF ha il compito di vigilare solamente sulla rete di Rete Ferroviaria Italiana, ossia quella delle ferrovie dello Stato. È un po' come se l'autorità di controllo sulle telecomunicazioni avesse l'obbligo di vigilare solamente su Telecom Italia o Banca Italia solamente su una sola banca. Morale, ci sono 16.700 chilometri gestiti da Rete Ferroviaria che sono controllati dall'autorità nazionale e poi ci sono una serie di autorità locali che sono sotto il controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che devono controllare e verificare la sicurezza di 3.700 chilometri di ferrovie, di cui alcune appunto a binario unico come in questo caso e alcune con il controllo telefonico della partenza e dell'arrivo di un treno, in sostanza il fatto che ha provocato presumibilmente, vedremo come andranno le indagini, l'incidente che è avvenuto in Puglia. Siamo in linea con Dario Balotta, che è responsabile dei trasporti di Legambiente Lombardia. Balotta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. Su un altro quotidiano invece abbiamo visto una sua intervista nella quale raccontava, occhio, che anche in Lombardia ci sono luoghi, e qua è il prossimo punto sulla mappa che mettiamo, nei quali si incrocia il problema di binario unico da una parte e dall'altra parte controllo quasi esclusivamente umano sul flusso dei treni. Beh, insomma, abbiamo detto già ieri pomeriggio quello che era successo, cioè che c'è un sistema ancora in piedi che si usava nel Novecento per regolare la circolazione tra i treni su molte linee italiane, in particolare quelle delle ferrovie in concessione. Questa è la verità. Poi che ci sia anche una fortissima confusione, una fortissima non capacità di gestire in modo uniforme tutta la rete ferroviaria, questo è venuto fuori in modo ancora più evidente, e cioè che c'è un controllo sulla rete delle ferrovie dello Stato di un tipo e poi ce n'è un altro, chiamiamolo controllo, sulla rete delle ferrovie concesse. Sì. La cosa assurda che ha detto il ministro due secondi fa in Parlamento è che quella non è una competenza sua. Il ministro dei trasporti, il ministero dei trasporti è il ministero vigilante su tutte le ferrovie italiane. Sì, e in particolare, come abbiamo visto, Balotta, soprattutto sulle ferrovie in concessione e sulle ferrovie locali tramite questi uffici che si chiamano UTIF e sono degli uffici che hanno il compito di vigilanza su questo. Però, senza spargere il terrore tra i nostri ascoltatori lombardi, no, Balotta, aspetti, dico, senza spargere il terrore tra i nostri ascoltatori lombardi, ci dice quali sono i punti critici in Lombardia, per favore? Beh, vi dico quali sono i punti nei quali c'è ancora un sistema di blocco di fatto, di tipo blocco telefonico, cioè del Novecento, per regolare la circolazione dei treni, e c'è una linea in Brianza che è la Asso Seveso e c'è una linea in Valle Camonica che è la Iseo Edolo. Queste due linee qui hanno ancora un sistema di controllo del traffico che è quello del Novecento, cioè i nuovi sistemi, i nuovi apparati tecnologici non sono ancora entrati in funzione. E questi sono appunto due punti critici per quanto riguarda la Lombardia. Volevamo sottolineare anche questo per far capire che non è un problema evidentemente solamente pugliese, ma è un problema più diffuso, ma soprattutto quello che volevamo far capire è che non si riesce ad avere un quadro complessivo di questa situazione. Si ha solo un quadro locale solamente per momenti. Sarebbe anche il momento giusto di avere un po' di dati su questi temi. Nicola Giorgino, il sindaco di Andria. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ovviamente non è un buongiorno, lei è stato tutta la mattina là sul luogo dei fatti e vorrei sapere che situazione ha trovato. Stanno ultimando le operazioni di sgombero delle macerie dei vagoni, dei convogli, cercando di agire con estrema cautela perché c'è ancora la possibilità di trovare dei resti rispetto a coloro che risultano essere dispersi e non ancora identificati presso l'obitorio del Policlinico di Bari attraverso l'intervento dell'Istituto di Medicina Legale. Comunque stanno ultimando le operazioni appunto di sgombero e di rimozione delle macerie, dove il quadro ieri si presentava in modo abbastanza inquietante e si sono viste le conseguenze che sono state devastanti. Il numero di morti accertati in questo momento, cioè le bare sono 23, ma ci sono 4 dispersi i cui corpi non si sono ancora ritrovati. Sindaco, brevemente, avete proclamato lutto cittadino per 3 giorni, no? No, noi abbiamo proclamato il lutto cittadino a partire dalla data odierna fino al giorno della celebrazione delle esequie, quindi se dovessero anche essere più lungo il periodo ci sarà il lutto cittadino e c'è la sospensione di qualsiasi attività di carattere pubblico, oltre che qualsiasi iniziativa, e tutta la città in modo condiviso si stringe intorno al dolore che ha colpito i familiari che hanno perso i loro cari. Tra l'altro purtroppo la città di Andria registra diverse vittime nel disastro ferroviario e molte sono anche vittime di giovanissima età, quindi spezzate nelle loro anche speranze di costruire il futuro. La ringrazio. Grazie Nicola Giorgino, sindaco di Andria, al quale auguro un buon lavoro in queste ore difficili. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.